Incontri di Gianfranco Fabi. Sereno con queste note. Buongiorno, buon pomeriggio e buona domenica a quanti ci ascoltano. Buongiorno e buon pomeriggio a Michele Bonfiglioli. Buongiorno. Sono più sereno, le vibrazioni, un brano che ci richiama immediatamente a un'esistenza di serenità, di un po' di godersi un po' la vita, ma anche impegnandosi ovviamente nella società in cui viviamo. C'è bisogno di serenità in questa fase sociale, politica, economica, globale. Beh, io credo che l'anno che si è appena chiuso e quello che si apre sono stati anni, saranno anni complicati, difficili. I telegiornali non si dimenticano mai di ricordarcelo. E questa canzone, diciamo, invece ci dà un messaggio un po' più tranquillo, di concentrarci un po' sulle cose di tutti i giorni, sapendo che oltre le nubi c'è sempre il cielo azzurro, no? Per cui che dobbiamo essere convinti che abbiamo più soluzioni che problemi, anche se i problemi sono tanti. Problemi sono tanti, ma a volte la gente si dispera per problemi che non può risolvere, e magari se ci si concentrasse su quelle cose che si possono fare avremmo meno tensioni e saremmo forse più sereni, ecco. Michele Bonfiglioli, amministratore delegato di Bonfiglioli Consulting, una società fondata nel 1973 da suo padre, mi sembra. Sì, mio padre, che adesso fa il nonno e il presidente onorario. Quindi c'è stato già un passaggio generazionale nella questa azienda. Passaggio generazionale compiuto 3 anni fa, concluso, con successo. Nell'azienda fa parte anche mio fratello, ed è stata un'esperienza interessante, formativa, e che probabilmente anche utile per le tante aziende che sono negli anni e saranno negli anni chiamate a questo passaggio. Ecco, qual è stato il fattore di forza, il fattore di successo che ha garantito questo passaggio generazionale? Il fatto che suo padre si è ritirato in buon ordine, il fatto che andiate d'accordo tra fratelli, cosa altrettanto importante? Ma io dico sempre, no, che si tende sempre a colpevolizzare il fondatore dicendo che non si vuole mai, no, non vuole mai lasciare la scena. In realtà io penso che per fare un passaggio ci serva anche chi poi si prenda in carico l'onere e l'onore della gestione, e quindi è un passaggio fatto proprio da due persone, per cui la base è l'armonia della famiglia. Se non c'è quella, non c'è nessun contratto che tenga, e dopo c'è tutto il resto. Ecco, ci fa una carta d'identità abbastanza rapida della Bonfiglioli Consulting. Che tipo di società è, dove siete, cosa fate? Noi siamo una società di consulenza e di direzione, nasciamo a Bologna, abbiamo un ufficio a Bologna, un ufficio a Milano, siamo 55 persone e ci occupiamo di portare l'azienda alle eccellenze tramite processi industriali efficienti, innovazione e sostenibilità. In che settori particolarmente? Settori, tutti i settori manifatturieri. In cui c'è da fare, perché l'Italia ha una grande forza, però ha un'industria che deve anche ristrutturarsi, deve diventare sempre più competitiva. Io credo che l'Italia è ricca di eccellenze di sua natura, credo che davvero la forza delle imprese sia nota, forse poco nota a chi deve prendere decisioni. Ci sono imprenditori che prendono la valigetta, vanno in Mongolia a vendere le loro macchine, e sono la forza delle nostre aziende. È chiaro che c'è sempre da migliorare, sempre da evolvere, e anche le nostre aziende, insomma, devono puntare all'eccellenza in questo oceano mondiale, insomma. Ecco, lei non ha fatto carriera solo all'interno della sua azienda, ma ha fatto anche esperienze lavorative e anche in posti di responsabilità in altre imprese. Sì, io ho avuto la fortuna di studiare anche all'estero, in Inghilterra, negli Stati Uniti. Ho lavorato in un'azienda manifatturiera importante italiana per qualche tempo. Occupando... Si possono anche fare i nomi per dirlo. L'azienda di pneumatici italiana, quindi la conosciamo. E poi ho iniziato questa avventura nella consulenza che mi ha portato anche a lavorare all'estero. Per esempio ho fatto progetti alla Coca-Cola, sono per dire i nomi più fancy, diciamo. Però insomma adesso sono contento di fare progetti anche in Italia. Ecco, qual è la differenza maggiore tra un'azienda all'estero, anche se ovviamente non si possono fare generalizzazioni, però azienda all'estero, lei ha lavorato in Turchia, ha lavorato negli Stati Uniti, e le aziende italiane, che cosa hanno di particolare nel bene e anche nel male le aziende italiane, se si può fare appunto un giudizio un po' sommario? Ma questa è una domanda da 6 milioni di dollari, no? Come si diceva. No, magari anche raccontando un'esperienza che ha avuto affrontando un problema aziendale negli ultimi tempi. Ma io quello che sono colpito quando lavoro con aziende americane è che loro davvero pensano che ogni cosa sia possibile, non c'è niente di impossibile, no? E questa è una forza che proprio si sente in ogni attività. E a volte l'europeo, probabilmente, è ancora più l'orientale, insomma. Si un po' accartoccia forse su preoccupazioni per il futuro dovute a una serie di fattori. E l'italiano, adesso non voglio cadere in facili costumi, insomma in facili generalizzazioni, è una persona che è più creativa, più individuale, probabilmente individualista, e trova sempre attraverso la flessibilità la soluzione. Gli americani, mondo anglosassone, più attraverso il sistema di regole. Ecco, questo fatto forse può sorprendere, che gli italiani siano più flessibili. Solito si pensa agli italiani un po' più rigidi, un po' più abituati a seguire delle procedure, ad avere delle competenze specifiche in aziende abbastanza strutturate, invece le aziende stanno diventando più leggere. Tra l'altro voi avete una metodologia che ha dato luogo anche a un libro, mi sembra. Ha dato luogo a un libro, anzi, che poi ha fatto dei figli di libri, ce ne sono già 7, che si chiama Lean Thinking, pensare snello, e che insegna alle aziende a eliminare tutti gli sprechi che ci sono nelle attività. Ecco, riguardo alla flessibilità, io credo che le aziende italiane siano famose, ecco, per cercare vie nuove e anche, come dire, innovative per trovare mercati nuovi, prodotti nuovi. Il problema è poi strutturare questi processi di uscita dai confini nazionali o dei processi interni. Ecco, noi le faccio un piccolo esempio: noi quando facciamo un corso alla nostra scuola, alla Lean Factory School, per capire cosa vuol dire l'efficienza industriale, facciamo montare motori elettrici. Gli anglosassoni, quando vengono, prima aspettano che gli si dica le istruzioni e poi iniziano. L'italiano, dopo 2 secondi, ho capito e parte, no? Noi non leggiamo le istruzioni quando montiamo i mobili, partiamo subito a provare a montarle, no? Questa è una battuta, ma insomma, diciamo che il sistema di strutturare un po' il miglioramento, il cambiamento, è un po' tipico forse dei mondi anglosassoni. Ecco, quindi c'è bisogno anche di cambiare all'interno delle imprese. Stanno cambiando le imprese italiane verso una struttura non solo più leggera, ma anche più flessibile, più capace di adattarsi, in cui non ci sono delle competenze rigide, stabilite, in cui non c'è il padrone che dice voi siete chiamati a lavorare, non a pensare, come capitava spesso. C'è uno scritto in un nostro libro, che di un caso reale in cui il padrone diceva: non pensare che a pensare ci pensiamo noi. Ma questo succedeva 30 anni fa. Io credo che ci sono tante bellissime, bellissime aziende che vanno in giro per il mondo e insegnano a tutti cosa sono i prodotti, cosa vuol dire fare imprese. Sono aziende piccoli campioni nazionali da 1.000-2.000 persone, che ovviamente non sono come le grandi multinazionali, ma che danno lavoro, che evolvono, che innovano, e quindi ci sono una serie di realtà veramente di cui essere fieri. Ecco, a me piacerebbe poter dire che insomma l'Italia ha tante belle cose, tra cui tante bellissime aziende. Ecco, sì, forse avrebbe bisogno di uno scenario un po' esterno più favorevole alle imprese. Ci sono molti condizionamenti infrastrutturali, normativi, procedurali, amministrativi, burocratici. Insomma, siamo abituati forse anche a complicarci un po' la vita e complicare un po' la vita delle imprese in Italia. Lei ha perfettamente ragione. Lei pensi che per riscuotere un credito in Italia ci vogliono, quando si riesce, da 1.200 giorni di media, attraverso, diciamo, gli aspetti legali, negli altri paesi sui 200 giorni, no? E pensi che nonostante questo ci sono tante belle aziende, per cui pensi cosa potrebbero essere, cosa potrebbero fare se le condizioni al contrario contorno fossero, diciamo, più normali. Ecco, ecco, sì, l'impegno per chi verrà dopo le elezioni, un nuovo governo, sicuramente è molto forte, ma senza entrare nei temi politici, ecco, l'Italia ha bisogno anche forse di consulenza un po' aziendale all'interno della pubblica amministrazione. Voi avete esperienze di questo tipo? Io le dico la verità, abbiamo qualche esperienza e purtroppo abbiamo anche abbandonato un po' il campo, nel senso che non erano, diciamo, mercati, clienti, come dire, promettenti. E poi se pagavano così in ritardo. Esatto, lei ha centrato il punto, insomma. Quindi vedremo un po' poi cosa si può fare, quale potrà essere anche la prospettiva da dare alle imprese italiane nell'ottica appunto della consulenza di direzione, della consulenza manageriale. Concludiamo qui questa prima parte di incontro con Michele Bonfiglioli e lasciamo spazio alle notizie sul traffico. Incontri. Ogni giorno farò il possibile per sopravvivere in mezzo al frastuono ed ogni giorno vivrò un po' meglio sapendo che oltre le nubi il sereno c'è. Oltre le nubi il sereno c'è, sono più sereno le vibrazioni con questo brano. Abbiamo cominciato la prima parte e continuiamo il nostro incontro con Michele Bonfiglioli, amministratore delegato di Bonfiglioli Consulting. Ci spiegava appunto della prima parte, un'azienda che ha sede a Bologna e a Milano, più di 50 dipendenti, specializzata in consulenza di direzione aziendale, specializzata soprattutto nell'area del lean thinking, cioè del pensiero flessibile, come possiamo tradurlo? Snello. Snello, con il pensiero snello le aziende devono diventare più snelle, anche se poi le aziende devono comunque crescere, devono crescere. Come crescere, far crescere un'impresa mantenendo appunto una snellità, come si dice? Snellezza, una forse. Snellezza forse. Bene, snelli nel senso di togliere gli sprechi, quelle cose che non servono e poi riuscire a tradurre sui costi del prodotto queste efficienze per poi vendere di più e quindi poter crescere ed assumere, entrare in nuovi mercati. Ecco, togliere gli sprechi, quali sono gli sprechi? Il primo spreco che incontrate quando iniziate a fare consulenza in una impresa? Ma a parte quelli, come dire, visibili, molto chiari, che sono fare le cose due volte, spostare il materiale, occupare spazio che non serve, le assicuro che se lei dà dello spazio la gente lo riempie, come dare l'armadio alla moglie che lo riempie di sicuro, se gliene ha da due le riempie due. C'è quello di non usare la capacità delle persone fino in fondo, probabilmente non chiedere alla gente che è sul campo di come risolvere i problemi. Questo i giapponesi lo identificano chiaramente come uno spreco e probabilmente e non ascoltare le proprie persone, perché noi crediamo che la ricchezza delle aziende è già dentro le aziende, nelle persone che hanno. Cioè far crescere il valore dell'impresa è possibile, sì, anche rendendo l'azienda più snella. Sì, sì, assolutamente. Ecco, di fronte alla realtà internazionale, le aziende italiane vengono descritte sempre come qualcosa, da una parte che sono appunto flessibili, piccole e medie imprese, capaci di affrontare la competizione, dall'altra come un po' ferme, un po' bloccate anche dalle procedure, dalle tradizioni, dalle difficoltà, anche da quel passaggio generazionale di cui abbiamo parlato nella prima parte. Ecco, come vede le prospettive delle aziende italiane in una situazione internazionale, anche macroeconomica, che è complessa? Grazie per la domanda, perché è davvero interessante. Io la terrei su due livelli, a livello, diciamo, microeconomico e a livello macroeconomico. A livello microeconomico credo che bisogna recuperare la forza dei nostri territori. Ci sono cose che abbiamo solo noi in Italia, che oltre il nostro saper fare e la nostra ricchezza dei territori, quindi concentrarci su aziende locali, filiere locali. Una volta si parlava di distretti, ma magari andare anche oltre questo concetto, proprio per puntare a eccellenze che sono proprie nostre. È inutile cercare chimere che non sono nostre. E mentre a livello macroeconomico io credo che questi momenti di difficoltà, che ormai proseguono da diversi anni, potrebbero portarci a una riflessione più ampia, che è quella che forse il nostro sistema completamente basato sui consumi non so se è valido all'infinito. Leopardi diceva le umane sorti progressive, no? Nell'infinito, quindi non so fino a quando sia sostenibile all'infinito riempire il mondo di oggetti. Noi siamo tutti saturi, noi abbiamo la macchina, i maglioni, i telefoni, i computer, chi più ne ha più ne metta, è ovvio che non possiamo consumare all'infinito, no? Quindi sarebbe bello, ecco, poter avviare una riflessione più profonda. Ecco, una riflessione che ovviamente è complessa, perché comunque poi la ricchezza è qualcosa che permette appunto di soddisfare i bisogni. C'è ancora molto spazio per soddisfare i bisogni, ci sono persone che hanno e famiglie che hanno di più e anche persone che hanno molto di meno. Forse avviare un processo anche di riequilibrio, ma forse snello, senza forzature, questa è la cosa più difficile. Assolutamente, forse è utopistico, è un sogno, però se noi pensiamo che negli ultimi anni abbiamo consumato più di quanto sia stato consumato in millenni e ci basiamo fondamentalmente nel cercare persone che comprino degli oggetti, forse all'infinito, cioè a lungo termine io però per mia figlia eccetera, non so quanto possa essere sostenibile e non so che tensioni poi possa portare a livello anche internazionale. Insomma, sono discorsi che portano lontano. Sì, certamente, però è un discorso che va anche affrontato, essere coscienti che dobbiamo affrontare questi problemi, che non possiamo affidarci a una crescita che deve continuare ad essere una crescita appunto spontanea quando c'è la crescita, e la crescita può risolvere tanti problemi, però deve essere una crescita indubbiamente equilibrata, una crescita che generi anche equità al proprio interno, anche al di là delle nostre frontiere. Ma per torniamo, ecco, sono discorsi certamente forse troppo vasti, torniamo un po' all'industria italiana. Voi appunto avete un punto di forza del pensare flessibile e che non è una, diciamo, importato dai manuali di management americani che sono molto di moda, ok, forse molto di moda qualche anno fa. Pensate che ci sia una maniera italiana, una via italiana al pensare flessibile, che cos'è? Ma noi lo pensiamo certamente, crediamo che gli interventi anche di riorganizzazione devono essere fatti su misura per le aziende, e pensiamo che anche il valore di aziende familiari, io dico sempre aziende familiari evolute, nel senso che fanno entrare aria fresca dalle finestre, sia un valore che va preservato. Di solito l'azienda familiare ha anche un interesse verso il territorio, verso i dipendenti, che magari grandi realtà multinazionali non hanno, e questa è una via che ci piacerebbe continuare a perseverare. Noi puntiamo sempre a fare crescere l'azienda fuori dall'Italia, preservando comunque la propria radice e presenza in Italia, no? Ecco, quali sono le aree? Si parla molto dei paesi emergenti, però è difficile che un'azienda possa sbarcare. Beh, si parla molto della Cina ovviamente, però anche altri paesi forse stanno crescendo ancora più della Cina, pensiamo all'area del sud-est asiatico, al Vietnam, Brasile anche. O anche il Brasile appunto, però ci sono veramente un'azienda di medie dimensioni, di piccole medie dimensioni, non può che avere difficoltà nell'andare su questi mercati, avere magari più costi che ricavi. Questo è un grande problema, è chiaro che alcune aziende non hanno la massa critica per fare questo passaggio. Credo che la delocalizzazione sia un fenomeno che sta leggermente cambiando, nel senso che se una volta si andava a produrre per importare a bassi costi, probabilmente adesso si produce per vendere localmente, local for local, e credo che questa sia un po' la via. È chiaro che bisogna avere dei prodotti innovativi, diversi dagli altri, che i consumatori possano apprezzare, altrimenti è difficile. Ecco, una strada che si sta cercando di seguire per ovviare questo limite delle piccole dimensioni delle imprese, quello di creare delle reti di imprese, magari anche di reti di imprese simili o che possano avere degli interessi comuni per avere un maggior impatto, una maggiore economia di scala, come si dice, per affrontare appunto i mercati. Su questo fronte, secondo lei, si stanno facendo i passi giusti per mettere in rete le imprese? Io credo che, anche qui parlando in maniera un po' forse generalizzata, l'attenzione che si sta avendo alle missioni economiche all'estero va in questa direzione, e credo che anche la riorganizzazione, insomma, che era forse stata un po' avviata del sistema delle ambasciate e dell'ICE, possa portare a interventi un po' più strutturali in questo senso. Le aziende italiane non hanno ancora le dimensioni per andare da sole all'estero, hanno bisogno di un supporto. Ma la base è che abbiano un prodotto che sia comunque, voglio dire, eccellente, diverso da chi fa, da altri. Ecco, per avere prodotti eccellenti, diversi, originali, bisogna anche fare ricerca. Fare ricerca è uno dei punti deboli, si dice, dell'Italia, ma anche se c'è probabilmente nelle imprese una ricerca un po' nascosta, che non è una vera e propria ricerca, perché però sono imprese orientate verso l'innovazione. C'è questo orientamento all'innovazione? Io penso proprio di sì, nel senso che le aziende italiane sono famose per seguire i bisogni del cliente ti fa innovare per forza, chiedendoti sempre cose nuove. È importante che questo patrimonio di innovazione poi non vada disperso così nella mente di chi l'ha fatto, ma rimanga patrimonio aziendale. Questo è un tema su cui si può lavorare. Eh sì, bisogna lavorare indubbiamente. Il patrimonio aziendale è un patrimonio che però non ha un obiettivo, ma ha dei continui punti di partenza, no? In un certo senso abituarsi a pensare che non si è mai arrivati è qualcosa che forse per l'imprenditore di successo rischia di essere qualcosa che limita. Ma guarda, l'imprenditore di successo secondo me è una persona che non è mai contenta e che ha voglia sempre di fare, di provare, e a volte va tenuto anche forse fermo, per cui è forse la sua capacità poi di fermarsi un attimo e trasferire il valore, la conoscenza che ha creato all'interno dell'azienda, che rimanga, diciamo, che possa sopravvivere anche alla sua figura. E questo è un punto su cui si può lavorare. Ecco, ci avviamo un po' alla conclusione. Michele Bonfiglioli, amministratore delegato di Bonfiglioli Consulting. Se non avesse fatto l'imprenditore, il consulente, cosa avrebbe voluto fare da piccolo, per quando da pensava piccolo, da piccolo, grande, il pompiere, l'ambasciatore? L'investigatore privato, o l'investigatore, ecco, forse più che privato, le polizie. Diciamo, vedere, ricostruire un po' i fatti, questo mi piace. Ecco, quindi è un po' una voglia di ricerca, anche di ricerca dei segreti. Ma una curiosità, probabilmente, mettiamola così, di trovare le soluzioni. Ecco, quello. Ecco, trovare le soluzioni, questo è veramente forse il problema. E trovare le soluzioni richiede creatività, richiede intuizione, richiede capacità. Ecco, c'è anche diciamo coinvolgere queste dimensioni con il fatto poi di dover seguire anche nella consulenza manageriale delle regole. Le imprese devono rispettare certe regole. Si riesce ad equilibrare l'intuizione, l'originalità, l'esuberanza con i vincoli poi della realtà. Beh, qui ci sono i consulenti, no? A parte la facile battuta, io credo che sì, si riesca. L'importante è la condivisione di informazioni, è parlarsi chiaro e condividere quello che si è fatto, e una soluzione si trova, insomma. Quindi le soluzioni ci sono sempre, anche per il paese? Io mi auguro proprio di sì, parlo da cittadino, mi auguro proprio di sì. Dobbiamo sperare tutti che ci siano. Ah, certamente. Ecco, ringraziamo Michele Bonfiglioli, amministratore delegato di Bonfiglioli Consulting, che è stato con noi questo pomeriggio, ci ha illustrato appunto i problemi delle imprese italiane, ma anche e soprattutto la volontà non solo ottimistica, ma anche di carattere, direi, come abbiamo iniziato dicendo, sono più sereno, guardando appunto al fatto che ci sono più soluzioni che problemi. Si tratta di trovare le soluzioni giuste, forse, perché soluzioni ce ne sono tante, qualcuna purtroppo è anche sbagliata. Grazie a Michele Bonfiglioli, grazie a Gabriele Loricella in regia, grazie a Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica. Grazie.